guarda tutto il sole, ci gode mentre gli cammini sopra, lei afferra, avanti grida, qui terra, calpesta la si schiaccia, tanto non fai del male, lei gli sorride mentre guarda tutto il sole, ci gode mentre gli cammini sopra, lei afferra, avanti grida, qui terra, per questa terra magica la logica è l'amore, da quando nasci cresci te la porti dentro il cuore, ti prende, ti rapisce, ti offre tutto il suo calore, cambia questi doni, dagli sempre più valore, da questa terra mia no, non vado via, è proprio una magia, la tengo stretta così sia, mi ha dato tanto amore senza che glielo chiedessi, mi ha baciato in fronte fin dai primi passi, TRS di la luna vostra torna, a vedere chi non ragione vostra sforna, l'ultimo bronzo fa sta terra con zumpa, a vedere chi è sentito in ceppi canta, sopra sta terra sì, io mi diverto, mi voto e mi giro sì, già sono esperto, e canto zumpando, e zumpo cantando, e grido qui terra pur camminando, calpesta la si schiaccia la tanto non fai del male, lei ti sorride mentre guarda tutto il sole, ci gode mentre gli cammini sopra, lei t'afferra, avanti grida, qui terra, calpesta la si schiaccia la tanto non fai del male, lei ti sorride mentre guarda tutto il sole, ci gode mentre gli cammini sopra, lei t'afferra, avanti grida, qui terra, qui terra. Io non ho nome, la mia terra mi appartiene come il vento, e per questo lo stento, non ho una casa, vive in giro intorno al mondo, manca al centro, ma sempre lo rammento, so solo che la terra è tale solo perché la calpesto, non conta tutto il resto, lei mi appartiene, le appartengo, per me conta solo questo, non sogno ma son desto, e qui c'è terra, c'è una terra assai speciale, ogni mio momento eccezionale è legato a lei, che ci posso fare, terra di mari, terra buona, picchia tari, questa è terra di lo tutto, cane sciuna, mai scordare, allora amala, perché è unica e lo sai, non l'abbandonare, anche se i problemi sono assai, pure proteggila da chi la sfrutta senza orgoglio, e se un giorno te ne andrai, prima o poi ritornerai, la calpesta la si schiaccia, la tanto non fai del male, lei ti sorride mentre guarda tutto il sole, ci gode mentre gli cammini sopra, lei t'afferra, avanti grida, qui terra, calpesta la si schiaccia, la tanto non fai del male, lei ti sorride mentre guarda tutto il sole, ci gode mentre gli cammini sopra, lei t'afferra, avanti grida, qui terra, qui terra. Tanto orgoglioso di un paesaggio rigoroso, di un paese pieno di tradizioni, abbiamo il verde e il mare per nuotare, per pescare, per sognare, alzo gli occhi e vedo il sole, passami il vino che voglio gridare, ha una terra naturale tutta da mare, un'occasione tanto speciale per poter portare il nostro credo a livello globale, senza te non posso stare, e dal vento mio compare come un'onda, io mi lascio trasportare, questa terra magica, la logica e l'amore, da quando nasci cresci te la porti dentro il cuore, ti prende, ti rapisce, ti offre tutto il suo calore, cambia questi doni, dagli sempre più valore, da questa terra mia no, non vado via, è proprio una magia, la tengo stretta così sia, mi ha dato tanto amore senza che glielo chiedessi, mi ha baciato in fronte fin dai primi passi, calpesta la si schiaccia la tanto non fai del male, lei ti sorride mentre guarda tutto il sole, ci gode mentre gli cammini sopra, lei t'afferra, avanti grida, qui terra, calpesta la si schiaccia la tanto non fai del male, lei ti sorride mentre guarda tutto il sole, ci gode mentre gli cammini sopra, lei t'afferra, avanti grida, qui terra, calpesta la si schiaccia la tanto non fai del male, lei ti sorride mentre guarda tutto il sole, ci gode mentre gli cammini sopra, lei t'afferra, avanti grida, qui terra, calpesta la